chiesto ai cittadini di telefonare alla Camera dei Deputati, al gruppo Movimento 5 Stelle e Lega Nord, per convincerli a cambiare il provvedimento quando a settembre arriverà la Camera. È molto importante che loro cambino idea e che tutti si mobilitino, perché ci sono anche tanti sindaci 5 Stelle e Lega arrabbiati come noi per questo provvedimento. Ma a tuo avviso questa sospensione dei fondi da cosa è motivata? Loro dicono perché occorre mettere ordine, perché vogliono guardare bene dove questi soldi andranno. Io penso soprattutto per finanziare le tante promesse che sono state fatte in campagna elettorale. In fondo lo sappiamo tutti che, insomma, Lega e 5 Stelle hanno promesso varie monti al sud e al nord, taglio delle tasse, reddito di cittadinanza. I cittadini hanno votato, quindi poi è giusto anche che provino a fare quello che hanno promesso. Dopodiché questi sono progetti finanziati, i comuni stanno facendo già le gare, gli appalti. Noi a Bologna abbiamo 18 milioni di euro da investire su cose importanti, perché comunque parliamo di interventi come la caserma dei carabinieri del Pilastro, il nuovo archivio della Cineteca all'Arcoveggio, riqualificando tutto il parcheggio Giuriolo, che insomma ha dei grossi problemi, come sapete, come sanno le persone che vivono lì. 18 milioni di euro sono importanti, in totale sono 1,3 miliardi divisi fra tutti i comuni italiani. Rinviare per 2 anni questi interventi significa di fatto non realizzarli. Gli interventi sulle periferie furono, diciamo così, motivati politicamente anche in seguito, come dire, agli attentati in Europa, che avevano mostrato come il disagio che cova nelle periferie può portare anche a situazioni non certo belle. Qualcuno oggi sui quotidiani notava anche come la maggior parte dei voti a Movimento 5 Stelle Lega sia arrivato proprio dalle periferie. È una sorta di tradimento? Ma io credo che sia più una questione legata alla confusione, la direi così, nel senso che hanno lanciato un provvedimento col decreto milleproroghe titolando soldi ai comuni, in realtà hanno proprio sbagliato a impostarlo, perché non si sono accorti che scrivendo in quel modo il testo avrebbero tolto le risorse a gran parte dei comuni. Quindi in questo caso io credo che ci sia una questione o di incompetenza o comunque di confusione che ha generato questo tipo di situazione. Una confusione che ha tratto in inganno quasi tutto il Senato, perché in realtà quell'emendamento sul decreto è stato votato, bisogna dirlo, all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, proprio perché è stato proposto al governo come salviamo i fondi per i comuni. Poi quando si è fatto un approfondimento, soprattutto da parte dell'ANCI e dei sindaci italiani, si è capito che, per come è stato scritto, in realtà è un taglio di 1,3 miliardi. Quindi l'incompetenza al potere non è che aiuti, che sia di destra o di sinistra, sempre incompetenza è. Quindi noi come sindaci, come amministratori, ci stiamo impegnando perché la cosa si risolva. Questo è molto importante come messaggio. E quindi insomma la battaglia comincia da qui a settembre. Assolutamente sì, e credo che d'ora in poi sia molto importante, visto che parliamo che uno vale uno nell'epoca dei 5 Stelle e del rapporto, no, della democrazia diretta, che a questo punto ognuno di noi, uno vale uno, chiami tutti i propri parlamentari della Lega e dei 5 Stelle, visto che hanno l'onere del governo, li convinca a cambiare idea.